Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Io adesso, alla mia età, non ignoravo più che certi miei antichi progetti erano favole, ma glieli dissi lo stesso, ben sapendo che lei tanto m'avrebbe creduto. Beh, incominciai, quando sarò diventato il primo valoroso proprio come un vero re, lo sai che farò? Andrò con i miei fedeli a conquistare le popolazioni e insegnerò a tutta la gente la vera bravura e l'onore. A tutti quei disgraziati glielo farò capire io quanto sono ignoranti. C'è un mucchio di gente che appena nasce si prende paura e rimane sempre con la paura di tutte le cose. Io voglio spiegare a tutti quanti la bellezza del valore che vince la misera viltà. E una delle imprese che farò sarà questa. Prossimamente, come t'ho detto, mio padre e io ce ne andremo assieme lontano per molto tempo, finché un giorno ci vedono sbarcare qua a Procida a capo di una superba flotta. Tutta la gente ci acclama e i procidani, col nostro esempio, si fanno i più bravi eroi di tutte le nazioni, come i macedoni, e anche molto alteri e signorili, come fossero fratelli a mio padre. Saranno nostri fedeli e ci seguiranno nelle nostre azioni. Per prima cosa andiamo all'assalto del penitenziario a liberare tutti i carcerati. E in cima alla fortezza issiamo una bandiera con una stella che si vedrà per tutta quanta la marina intorno. L'isola di Procida sarà tutta imbandierata, come una bella nave, diventerà meglio di Roma. Qua, in aria di sfida, io la fissai in volto. Difatti, in seguito al parere da lei espresso in carrozza poche ore prima circa i galeotti e le galere, esisteva tuttora una questione sospesa su questo punto fra noi due. Ma sul suo volto, adesso, il mio sguardo non trovò altro che una solidarietà esultante, come se ella già fosse impaziente di vedere la mia bandiera sventolare sulla rocca dell'isola e già se ne promettesse una gran festa di canti e di balli. Allora, a conclusione dei miei discorsi, io ripresi a dire, battendo la copertina degli eccellenti condottieri col rovescio della mano: «Questo qui non è un libro di racconti inventati, è proprio storia vera e scienza. I condottieri storici, pure più famosi come Alessandro di Macedonia, non erano persone fatate. Le persone fatate sono favole. Erano persone uguali alle altre in tutte le cose, fuorché nei pensieri. Uno, per principiare a essere come loro, e anche meglio di loro, deve prima tenere nella mente certi veri, grandi pensieri. E questi pensieri, io li so.» «Che pensieri?» interrogò essa intenta. «Beh», io le confidai dopo qualche esitazione, corrugando i cigli, «il primo pensiero, il massimo di tutti, è questo. Non bisogna importarsene della morte.» Così, ormai, le avevo svelato perfino la famosa reticenza del mio famoso codice, la più spavalda, cioè, e la più difficile delle mie certezze assolute, e anche la più suprema, più segreta incertezza. Essa approvò e in tono grave disse: questa è la prima verità. E aggiunse: che ce la insegna pure Dio. Poi rimase a fantasticare un momento e aggiunse quasi in segretezza: ci credi, Artù? Quando tu dici quel tuo pensiero, che vuoi diventare uguale a un re, a me mi pare di vederti come fosse già proprio vero, naturale, vestito magnificamente, con una bella camicia di seta, coi bottoncini d'oro, il manto, la corona d'oro e tanti begli anelli preziosi. Io la interruppi con superba noncuranza. Ma che vai pensando? La corona, il manto, eccetera. Si dice questa parola re e tu pensi subito ai re titolati. I re che dico io sono re speciali, che non vanno vestiti da buffoni come dici tu. E come vanno vestiti? Ella domandò interdetta ma tuttavia curiosa. Vanno vestiti senza curarsi, così come gli pare, io dichiarai pronto. Indi subito, senza doverci pensare troppo, precisai: d'estate, con un paio di pantaloni e una camicia qualsiasi, magari pure stracciata e sbottonata, e così un fazzoletto fiorato al collo. E d'inverno con una giacca qualsiasi, per esempio a quadri, insomma sportiva. Ella sembrava un poco delusa, ma dopo un momento i suoi occhi mi rimirarono con ingenua dedizione e disse convinta, tentennando il capo: «Tanto tu, seppure ti vesti da pezzente, sembri un principino lo stesso». Io non risposi, rimanendo a labbra serrate per mostrare indifferenza. Quando ecco, là per là, d'un tratto uscii a ridere, tanto quel complimento mi faceva piacere. Di lì a poco si udì il passo di mio padre che scendeva le scale, e il più misterioso di tutti ricomparve fra noi. Si vide allora che l'acqua della pentola, bollendo da un pezzo, era per metà evaporata senza che noi altri due ce ne accorgessimo, e le braci s'erano quasi consunte. Questo fatto ritardò la cena e, nell'attesa, mio padre incominciò a bere del vino d'Ischia, che era il suo preferito. Egli s'era levato dalla siesta riposato e di umore ridente, e pareva contento, come ad un gioco, di cenare noi tre assieme nel castello dei Gerace. Questa sua allegria esaltò tutti, e la serata prese un'aria di grande festa. Finalmente si era tolta il cappottino del viaggio. Sulla gonna di velluto aveva una maglietta di lana rossa, la quale, come il cappottino, le si era fatta corta e stretta, e in quest'abito si poteva vedere meglio la forma del suo corpo. Esso appariva, anche alla mia inesperienza, già molto sviluppato per la sua età, ma c'era in quelle forme di donna una specie di rozzezza e di ignoranza infantile, come se lei medesima non si fosse accorta di essere cresciuta. Il suo petto sembrava troppo pesante per quel busto acerbo, con le spalle magre e la vita piccola, e ispirava un senso strano e anche gentile di compassione. E la gravezza dei suoi fianchi, larghi e piuttosto malfatti, non dava alla sua persona un carattere di forza, ma di ingenuità impacciata e indifesa. Le maniche della maglietta le lasciavano le braccia scoperte fin quasi sotto il gomito, e si vedeva lo stacco fra la pelle bianca delle sue braccia e quella delle sue manine, gonfie e arrossate dall'inverno. Anche questa cosa destava un sentimento di compassione per lei. E a guardare i suoi polsi, che non erano fini, ci si avvedeva che, proprio perché erano grossolani, chissà come essi avevano un'espressione di tenera innocenza. Tutta fiera di cucinare la pasta, ella sembrava perfino dimenticare la paura che mio padre le metteva e che prima nel pomeriggio la faceva tanto tremare. Ma il presente umore di lui non sembrava minaccioso. Egli non le dava adesso ordini inquietanti, né le spettinava i capelli, e anzi non le stava nemmeno a costo e non si occupava di lei. A tavola egli mangiò molto e beve altro vino d'Ischia, e il vino, secondo il solito, pur senza ubriacarlo affatto, gli ispirò modi imprevedibili, rendendolo ancora più misterioso per me. Il vino poteva avere su di lui effetti diversi e anche opposti. Lo rendeva a volte più espansivo e a volte sonnolento e tetro, e in qualche occasione lo empiva di rimpianti, di smania, oppure di una violenza stravagante in cerca di oggetti su cui sfogarsi. Su di me non si sfogava mai, se non con una peggiore bruscheria di modi. Evidentemente egli mi considerava un personaggio troppo piccolo, da non meritare la pena. Quella sera il vino si accordò col suo umore spensierato, rendendolo più loquace e fantastico. La durezza dei suoi sguardi cedeva ogni minuto a una specie di grazioso compiacimento che pareva invaghirsi di qualsiasi cosa vedesse, anche di un avanzo di pane o di un bicchiere. Raccontò, soddisfatto, che di sopra aveva fatto un bel sonno, aveva dormito più di 2 ore. Poi sogguardò la sposa con un'espressione di doppiezza, come se andasse tramando, all'insaputa di lei, un qualche crimine puerile, e aggiunse: «Ah, sai tu chi ho sognato? Quell'antenato mio del ritratto, il fantasma del castello». «Ah, quello!» essa mormorò. «Già, lui! Aveva addosso una vestaglia ricamata a stelle a mezzelune, come uno stregone, e m'ha detto: "Vedrai che cosa ti succede a portarmi una donnetta in casa mia. Stanotte io verrò coi miei paladini e la butterò fuori". La sposa rise con un'aria incredula, ma pure titubante. «Tu ridi, eh? Vedi che non riderei più fra poco. È arrivato, credo, il momento di svelarti una cosa che finora ti ho taciuto. Tu, Arturo, approvi? È giusto informarla, no? Adesso che è la signora Gerace. Sappilo dunque, ragazza. C'è un mistero nella nostra famiglia. Tutto il paese ne ha conoscenza. Questo castello è frequentato dagli spiriti. Quell'antenato mio, difatti, è un gran signore e seguita sempre a offrire qui teatri e feste da ballo alla migliore gioventù, come quando era vivo. La sola differenza, si capisce, è che adesso i suoi invitati sono tutti spettri. Anzi, qualcosa di peggio. Naturalmente lui non invita spiriti di femmine, perché, come sai, le odia le donne. I suoi invitati sono tutti maschi, ragazzi e ragazzetti morti nel fiore dell'età. E tutti quanti, se vuoi saperlo, anime dannate. Si tratta di tipi scelti fra le peggiori canaglie, i quali, morendo, si sono mutati in diavoli. E questa banda ogni notte arriva qui da tutti i quartieri dell'inferno. Ne entrano dalle finestre, da sottoterra, a centinaia. Tu puoi attestarlo, no, Arturo? In risposta io, senza dir niente, gli sorrisi in segno d'intesa e anche, poiché tale era l'obbligo mio, di omertà. Ma questo mio sorriso, pare, servì di incoraggiamento a lei. Essa ebbe a sua volta un sorrisetto da persona sagace e navigata e disse, scuotendo il capo, a mio padre: voi adesso mi volete canzonare, mi trattate proprio da ignorante, ma di certe cose io me ne intendo meglio di voi». «Che? Attenta a come parli tu. Meglio di me? No, meglio di voi no. Questa parola mi è uscita a caso, non significa niente proprio. Volevo dire che voi mi trattate da ignorante sul serio se credete di potermi canzonare e pensate che io non conosca certe cose come stanno veramente. Quasi non fosse un fatto conosciuto questo. Che diavoli guaglione non ne possono mai esistere, perché se uno muore guaglione non ha potuto essere un gran peccatore, seppure in quella poca vita sua ha combinato qualche fatto, come fosse pure rubare o anche fosse ammazzare dei cristiani. Beh, non vale mica, là non c'è infamità. A quello là tutti i peccati gli si contano per peccati veniali. I guaglioni al massimo potranno prendere 20, 25 anni di purgatorio. E dopo i guaglioncelli picciorilli diventano tutti angeli cherubini e quelli più grossi serafini. Per questo la gente va e consola le loro madri col dire: «State contenta, signora, quella ha avuto la più grande fortuna, Dio se l'è scelto per farsi un altro angelo». Un diavolo non si può mai fare con un guaglione. Per fare i diavoli ci vuole per forza della gente anziana. Simile ragionamento, che in se stesso poteva suonare piuttosto comico, ci fu esposto con una tale gravità che riderne sarebbe stata un'offesa troppo cruda, per cui ci tenemmo abbastanza seri. Anche mio padre si contentò di ridere appena un poco. «E dunque», egli le disse, «adesso tu qua con questa tua bella opinione ti senti sicura, convinta che quei paladini sono angeli del cielo». E non credi nemmeno alla parola che m'ha detto in sogno il mio antenato, che stanotte verrà con loro per farti male assai. E chi ci crede alle parole di quello là, che andava dicendo che le donne sono tutte quante brutte? Oh, esclamò mio padre levandosi orgogliosamente, questa è l'ultima bella novità che mi onora e mi tocca ascoltarla con i miei orecchi. Così quasi oserebbe affermare che un mio antenato è capace di raccontare frottole. «No, mica pensavo di dire questo, del parente vostro. No, ho sbagliato. Ma quello proprio diceva che tutte quante le donne sono brutte. Proprio così diceva». Mio padre si allungò sulla sedia ridendo forte. «Sì», dichiarò, «proprio così diceva, che sono tutte brutte». Essa mi guardò quasi a chiedermi la riconferma di un caso tanto curioso. «Vuoi saperlo proprio come diceva?» riprese allora mio padre, e senz'altro si mise a declamare contraffacendo l'amalfitano. Quanto sono brutte, meglio non pensarci, vile il mio, a quanto sono brutte, e ne vengono su dovunque per tutta la terra, si moltiplicano a migliaia, a milioni quegli insulti di natura, chissà anche negli altri pianeti, nella luna, se esistono, e più riescono fatte a regola, a perfezione per così dire, e più sono brutte, meschine loro, è proprio lo stampo della loro razza che è amaro. Ma perché? Ma come si spiega? Nel creato tutte le cose sono così ben fatte, perfino le cose di nessuna importanza, un filino di alga, un fiumiciattolo, un pesciolino, un pidocchietto delle rose, un cicerchio, una fogliuccia di cicoria, tutte le cose, nonché di azzeccoso e di simpatico che ti fa dire... Ah, oh, meraviglia dell'universo, quanto è bello, che piacere vivere. Perfino quando ti capita di incontrare un tipo di cristiano un poco storpiato, un povero rifiuto di leva, stortarello, nana, e a prima vista pensi, costui è brutta assai. Sì, signore, perfino in questo caso poi a riguardare bene, sempre qualche cosa trovi da poter dire, però in fondo non è proprio del tutto spiacente. Sì, in qualunque scorfano, in qualunque ragno, osservarli bene, ci si può riconoscere il segno di quella manina artistica e fatata che ha formato tutte le cose dell'universo. Solamente per un'unica razza, le donne, non c'è stata misericordia. Allora è toccata la bruttezza e nient'altro. Saranno di un'altra manifattura, questa è l'unica possibile spiegazione. A simile discorso, recitato in tono di commedia, noi altri due scoppiamo a ridere. Allora mio padre, con aria indolente, mi gettò una buccia d'arancia e mi apostrofò dicendo: Tu, Moro, invece di ridere tanto, sarebbe meglio che ci facessi sapere la tua idea sulla bellezza delle donne. Per esempio, che ne pensi tu di questa sposa? Ti pare bella o brutta? Io mi sentii avvampare in volto, perché non ero preparato a simile domanda. E in verità non sapevo nemmeno io che cosa ne pensassi precisamente di quella sposa. Avanti di dare la mia opinione, le allungai un'occhiata, come per valutarla lì per lì. Ma allora, in quel momento stesso, mi avvidi che non mi serviva riguardarla. A mia insaputa, io l'avevo nella mente già da prima la mia idea su di lei. Ed ecco qual era. Circa la bruttezza delle donne in genere, per quel che ne sapevo e vedevo io, mi pareva che l'amalfitano avesse piuttosto ragione che torto, e questa donna, qua, in particolare, non si poteva dire meno brutta delle altre. Ma pure, per quanto riguardava questa donna qua, nonostante le sue innegabili bruttezze, io, secondo il gusto mio, la stimavo supremamente graziosa. La mia opinione, però, mi sembrava troppo personale e immotivata e mi vergognavo di dichiararla. D'altra parte non volevo mentire. E allora, sdegnando di guardare sia lei che mio padre, abbassai le palpebre con un'espressione accigliata e quasi feroce e risposi: «Non mi pare brutta». «Va», esclamò mio padre alzando le spalle. «Tu adesso vuoi fare il cavalleresco e il complimentoso. Non ti pare brutta? Su, andiamo. Chissà che cosa ci trovi di bello». Essa rideva in una dolce confusione, senza affatto risentirsi per venir trattata da brutta. Io guardai mio padre arditamente e proclamai risoluto: «Ha gli occhi belli!» «Ma che belli! Sono occhioni troppo grandi, ma va lì, che mi racconti, moro?» Essa in quel momento mi guardava, ed i suoi occhi, pieni di timidezza e di festa e di gratitudine per la lode che avevano avuto, erano così meravigliosi che la sua fronte pareva adorna di un diadema. Io risi, mi risedetti e tacqui. E mio padre, indirizzandosi a lei con un cenno altero del mento, le disse: «È inutile che ti pavoneggi tu, signora Gerace. Tanto lo sappiamo che sei bruttarella, una ciabattona. Il moro stasera vuol farti le cerimonie, vuol fare il castellano, sì, il calante. Piuttosto, madama, invece di fare la bella con i tuoi occhioni, facci sapere anche tu quanto ne capisci in fatto di bellezza. Per esempio, come ti pare questo moro, eh? Che te ne sembra di lui?» Essa si vergognò di dare la propria risposta ad alta voce. Si avvicinò all'orecchio di mio padre e con un'espressione coscienziosa e grave gli disse piano: «Ma la udì anch'io, però. Mi sembra bello». Io girai la testa da un'altra parte con aria indifferente. Mio padre rise e disse: «Beh, stavolta sono anch'io d'accordo, è vero, è un bel ragazzo. Non per niente figlio mio». Io facevo finta di nulla, come se non sapessi che parlavano di me. Egli, per provocarmi, mi dette un leggero calcio sotto la tavola e seguitava a ridere quasi dolcemente guardandomi. E allora anch'io mi misi a ridere insieme a lui. Egli si versò ancora del vino e mentre lui beveva, per forse 2 minuti rimanemmo tutti senza parlare. Si riudì l'urto dei flutti giù contro i piccoli golfi ed io a quel suono vidi nel pensiero la figura dell'isola distesa nel mare con i suoi lumini e la casa dei guaglioni quasi a picco sulla punta con le porte e le finestre chiuse nella grande notte d'inverno. Come una foresta toccata dall'incanto, l'isola nascondeva sepolte in letargo le creature fantastiche dell'estate. In tane introvabili sottoterra o negli anfratti delle mura e delle rocce riposavano le serpi e le tartarughe, le famiglie delle talpe, le lucertole azzurre. I corpi delicati dei grilli e delle cicale si sfacevano in polvere per rinascere poi a migliaia cantando e saltando. E gli uccelli migratori, spersi nelle zone dei tropici, rimpiangevano questi bei giardini. Noi eravamo i signori della foresta, e questa cucina accesa nella notte era la nostra tana meravigliosa. L'inverno, che finora m'era sempre apparso una landa di noia, d'un tratto stasera diventava un feudo magnifico. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.